Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È stato facile stanziare adesso un altro miliardo? No, non è stato facile, ma è molto importante ed è il segnale, è un altro segnale, che il mondo della scuola è al centro dei nostri pensieri, perché la scuola la amiamo, perché la scuola è il nostro futuro, la scuola forma cittadini e cittadine. Così la ministra Azzolina dell'Istruzione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha annunciato oggi in conferenza stampa l'accordo finalmente raggiunto sulle linee guida per ripartire con la scuola a settembre. Si partirà, la data ormai ufficiale, il 14 settembre. È stato un lavoro lungo, si è lavorato anche di notte tra la conferenza delle regioni, enti locali, ministero, eccetera, eccetera, governo, e finalmente sono arrivate queste linee guida che sottoporrò in trasmissione al presidente dell'Associazione dei Presidi Italiani, visto che sono direttamente coinvolti, addetti ai lavori, e anche una rappresentante della conferenza delle regioni, responsabile dell'istruzione nella conferenza delle regioni. Sembrano soddisfatte le regioni e gli enti locali. C'è probabilmente ancora qualcosa da aggiustare, finora sono le linee guida, poi bisognerà vedere come saranno messe in pratica. Ci occuperemo poi naturalmente di molte altre cose, tra cui una notizia che vi avevo dato proprio ieri in presa diretta mentre eravamo in trasmissione. È arrivata la notizia che vi ho dato, cioè il fatto che il Senato ha annullato la delibera per il taglio dei vitalizi. Questa cosa, come era immaginabile, ha suscitato molte reazioni politiche, di cui parleremo per capire insomma che fine farà questo taglio dei vitalizi. È annullato definitivamente? C'è una possibilità di ulteriore ricorso? Ne parleremo durante la trasmissione. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i WhatsApp e gli SMS, che è 349-238-6666. Se non riesco a rispondere sempre a tutti anche dopo la trasmissione, perché c'è ancora qualche rallentamento. Comunque, Twitter di Effetto Notte durante la diretta, durante il giorno Roby con la Y linetta bassa Giordano. Scuola via libera, le linee guida per il ritorno in classe il 14 settembre, ragazzi a un metro di distanza, e Conte sottolinea stanziato un altro miliardo. I dati sul coronavirus sono 259 i nuovi casi, 30 le vittime in più in un giorno. Continua l'allarme ai focolai e ancora tensioni a Mondragone. E allarme negli Stati Uniti, sarebbero 23 milioni i veri contagi. Lo stop al taglio dei vitalizi, Di Maio attacca, è un fatto gravissimo. E gli ex parlamentari dicono sì ai sacrifici, ma bisogna rispettare le sentenze. Rogo Thyssen, Conte ai familiari delle vittime, dice: porterò la vostra lettera alla cancelliera Merkel. Scozia, accoltellamento a Glasgow, 3 morti, incluso l'aggressore ucciso dalla polizia, e 6 feriti. Viaggi in aereo, l'ENAC conferma no ai bagagli nelle cappelliere in aereo. Volare in tempi di coronavirus si fa più complicato. Calcio Serie A maschile in campo stasera, l'anticipo Juventus-Lecce alle 21:45. Partiamo quindi dalla scuola con le tanto attese linee guida. Alla fine di una settimana di confronto tra governo e regioni si è trovato un compromesso per il ritorno in classe. Il prossimo anno scolastico scatterà per tutti il 14 settembre. Accordo trovato, si torna a scuola il 14 settembre con i ragazzi in classe a distanza di un metro. Dopo un lungo braccio di ferro segnato da polemiche e tensioni, arriva dunque il via libera della conferenza Stato-Regioni all'intesa. Soddisfatto il premier Conte, che conferma lo stanziamento di un ulteriore miliardo per la scuola. Ma non sarà finito qui, perché vi preannuncio che sicuramente nel piano di rilancio e del recovery fund, quindi delle risorse europee, un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola. Vogliamo classi meno affollate, aggiunge poi il premier, le cosiddette classi pollaio non le tolleriamo più. Faremo lezioni anche in cinema, teatri, musei, dice il ministro Azzolina, che parla di linee guida condivise immediatamente operative. Le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali, che ci hanno dato veramente una grande mano. Prevista la riduzione della distanza interpersonale di un metro tra le teste dei ragazzi, non più tra i banchi, l'istituzione di conferenze dei servizi per analizzare le criticità sul territorio e recepire le stanze delle scuole su spazi arredi edilizia, la promessa di rivalutare alla fine di agosto l'uso della mascherina e un misto di soluzioni tra turni e orari scaglionati. scaglionati. Un ottimo risultato l'ha definito Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E tra poco con due ospiti ci sarà modo di commentare queste linee guida. E insieme al tema della scuola, oggi protagonista della scena politica è stata la vicenda appunto dei vitalizi agli ex senatori. Ieri sera il blitz che ha cancellato i tagli decisi nel 2018 per i parlamentari delle legislature precedenti al 2012, e oggi poi la reazione contraria di tutte le forze politiche e la ricerca di una soluzione. Poi ci sarà spazio, come vi dicevo, per tornare a parlare. E siamo ai dati aggiornati sul coronavirus. Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, 4 in meno di ieri. L'Istituto Superiore della Sanità invita alla cautela. Nuovi contagi e nuove vittime da coronavirus in calo in Italia, 259 i nuovi casi, 60% dei quali in Lombardia, 30 i nuovi decessi. Numeri che portano a 239.961 il totale dei casi, quello dei morti a 34.708. E allarme intanto per i nuovi focolai Mondragone, ma non solo. Il focolaio alla Bartolini di Bologna ha raggiunto i 91 positivi fra lavoratori, loro familiari e conoscenti. Attraverso i sindacati, i lavoratori del Corriere Espresso si dicono terrorizzati, denunciano il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, chiedono il blocco totale del sito e l'estensione dei controlli ad autisti e spedizionieri. Risultano entrambi riconducibili ai lavoratori frontalieri con la Svizzera, i due nuovi focolai in Val d'Ossola, in Piemonte, almeno 13 le persone contagiate. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E i focolai in Italia sono circa una decina da nord a sud, poi torneremo a soffermarci in particolare su quello di Bologna e su quello di Mondragone. E anche il bagaglio a mano in aereo è vittima del coronavirus. Da oggi le compagnie aeree come Alitalia, Ryanair, EasyJet e tutte le altre devono vietare, ne parlavamo già ieri ma da oggi è ufficiale, l'utilizzo delle cappelliere per il trolley, che così va imbarcato in stiva dopo la decisione del Ministero della Salute trasmessa all'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile. Su voli da e per l'Italia, all'interno del nostro paese, infatti, è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie, dice l'ENAC, ribadendo che per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere. Qual è la spiegazione? Dicono non sono norme sanitarie, sono norme sanitarie non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare assembramenti, movimenti a bordo e contatti ravvicinati tra i passeggeri. Sapete quando si sale che si devono mettere i bagagli nelle cappelliere, tutti no, che si ammassano l'uno attaccato all'altro e non c'è spazio, per evitare questo evidentemente. L'ENAC farà però presente che nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l'imbarco del bagaglio in stiva. Adesso all'estero, con l'allarme negli Stati Uniti, i decessi per coronavirus sono in calo, il tasso di mortalità è uno dei più bassi al mondo, la nostra economia sta ripartendo e non sarà chiusa di nuovo, ha detto il presidente Donald Trump. Suona come un monito a quegli stati che, travolti da un'ondata di contagi, invece cominciano a frenare sul ritorno alla normalità. Ma le autorità sanitarie americane adesso vengono allo scoperto e rivelano quella che potrebbe essere la drammatica realtà. Almeno 23 milioni di persone contagiate in America, 10 volte più di quanto finora non indichino le cifre ufficiali. E sì, perché per ogni caso di coronavirus accertato ci sarebbero almeno 10 altre persone. Questo è l'allarme di Robert Redfield, direttore del Centro Nazionale Stati Uniti per il Controllo e la Prevenzione della Malattia, la massima autorità federale in materia di salute pubblica. E Anthony Fauci, il massimo esperto ingaggiato dalla Casa Bianca per fronteggiare da un punto di vista medico la pandemia, ha nelle ultime ore ammesso che sul fronte della strategia qualcosa, dice, non sta funzionando e che la situazione è molto grave. In questo contesto Trump ha deciso di smantellare l'Obamacare, programma di assistenza alla salute delle persone meno abbienti. È intervenuto su questo il candidato democratico Biden, che dice smantellare l'Obamacare peggiorerebbe una risposta alla pandemia già inadeguata da parte del presidente Donald Trump. Adesso in Europa, con una notizia che arriva dalla Spagna, tracce di Covid già presenti nel marzo dello scorso anno. Una scoperta che potrebbe riscrivere la storia della pandemia. A farla i ricercatori dell'Università di Barcellona che in un campione di acque reflue del capoluogo catalano, risalenti al 12 marzo 2019, hanno trovato tracce di SARS-CoV-2. Il riscontro farebbe ipotizzare una possibile circolazione del virus in Europa ben 10 mesi prima che la Cina lanciasse l'allarme e ben un anno prima che l'OMS dichiarasse la pandemia globale. Secondo il coordinatore del gruppo di ricerca Albert Bosch, il fatto di aver trovato tracce del virus prima che venissero diagnosticati casi ufficiali nella popolazione dimostra che molti dei contagiati potrebbero essere stati erroneamente confusi con casi di influenza stagionale. In Spagna risalgono le vittime, 8 e i contagi giornalieri, quasi 200. Allerta anche in Gran Bretagna, dove le vittime per coronavirus sfiorano le 190 al giorno, e preoccupa anche l'invasione delle spiagge oltre Manica. Scene da costiera romagnola in alta stagione nel sud del paese, in particolare a Bournemouth. Logica conseguenza di temperature particolarmente elevate, hanno portato il premier Johnson a condannare l'episodio, invitando gli inglesi a mantenere il distanziamento sociale. Infine, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'OMS, traccia uno scenario preoccupante. L'epidemia si sta comportando come ipotizzato, il paragone con la spagnola, andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre-ottobre, facendo 50 milioni di vittime nella seconda ondata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, pomeriggio di paura a Glasgow in Scozia, coltellamento in un hotel, ucciso l'aggressore, ma non si tratterebbe di terrorismo. 3 morti per accoltellamento, 6 feriti ricoverati in ospedale, incluso un poliziotto in gravi condizioni, ed il presunto omicida freddato sul posto dai colpi degli agenti britannici. È il drammatico bilancio del serio incidente avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14 nel centro di Glasgow. Mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell'omicidio multiplo, immagini diffuse su Twitter mostrano corpi insanguinati distesi attorno alle scale all'esterno del Park Inn, l'hotel della città scozzese che per via del coronavirus è chiuso al pubblico e viene usato come alloggio di emergenza per un centinaio di richiedenti asilo. Il sospetto omicida sarebbe stato ucciso all'interno dell'hotel, dove secondo testimoni avrebbe attaccato personale alla reception. La polizia scozzese ha specificato che si tratterebbe di un incidente isolato che non pone pericoli imminenti alla cittadinanza e non si starebbero cercando altri complici. Ma la Gran Bretagna è in stato di allerta, a 6 giorni dall'atto terroristico di Reading, giusto sabato scorso. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. In noi in Italia, una città deserta con molti alberghi, negozi e ristoranti ancora chiusi, il centro storico di Roma si presenta così ai pochi turisti italiani che dopo la fine della quarantena in questi giorni si riaffacciano tra monumenti, chiese e fontane della città eterna, messa in ginocchio dall'assenza dei turisti stranieri, un danno stimato in 14 miliardi di euro. Il reportage completo a cura di Giorgio Stamatopoulos sarà in onda domenica alle 8:15, ora ascoltiamo un anticipo. No, in realtà volevamo andare al mare, però si è detto ma quando ci ricapita ad andare a Roma con così poca gente? Comunque molto vuota. Abbiamo trovato una città deserta. Addirittura un barista ieri quando siamo passati col trolley ha detto che bello sentire il rumore delle ruote dei trolley. Una città vuota, più accessibile ai visitatori grazie all'assenza dei milioni di turisti stranieri che fino a prima dell'emergenza Covid la affollavano ogni giorno. L'altra faccia di questo ritrovato fascino della capitale è però una profonda crisi economica che ha colpito l'intero centro storico, da anni ormai interamente convertito al turismo internazionale di massa. Molti alberghi, ristoranti e negozi sono ancora chiusi e le perdite del settore stimate dal comune descrivono una crisi profonda, come sottolinea l'assessore al turismo del Campidoglio Carlo Cafarotti. Un danno intorno ai 14 miliardi su tutto il valore aggiunto romano, che ricordo essere 151 miliardi. Oggi si riaffacciano gli italiani dalle altre regioni, ma è un turismo mordi e fuggi, attento a risparmiare, mentre è quello straniero, soprattutto americano, l'unico a poter garantire la sopravvivenza di un intero comparto economico, come ci spiega una guida turistica della capitale. Storicamente il turismo statunitense a Roma e altri ovviamente, un turismo che compra, che spende, che va in albergo, che prende visite guidate, organizzate, è quello che rende questa città ricca, va al ristorante, finché non tornano loro Roma non riparte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di manifestazioni, non una di meno torna in piazza a Roma all'Esquilino, domani Movimento Femminista, non una di meno appunto torna nelle piazze con manifestazioni organizzate in molte città italiane. A Roma l'appuntamento è alle 19 in piazza dell'Esquilino con lo slogan «Se i panni sporchi si lavano in casa, noi li portiamo in piazza». Le promotrici contestano la nuova normalità imposta soprattutto alle donne, dicono, e scendono in piazza perché non accettano che la ricostruzione e la convivenza col Covid-19 avvengano al prezzo dello sfruttamento, dell'intensificazione della divisione sessuale del lavoro e del razzismo. Gli effetti della pandemia non hanno colpito tutti allo stesso modo, continuano, ma anzi hanno prodotto un'intensificazione della violenza domestica. Sono circa 20 femminicidi dall'inizio del lockdown e un aumento del carico del lavoro di cura domestico per le donne. Questa crisi, dicono, sociale ed economica, e ne stiamo già pagando il prezzo. E poi il Pride, il prossimo 28 giugno ricorreranno i 50 anni del primo Pride, allora chiamato Gay Pride, che si tenne a New York nel 1970 per celebrare i moti di Stonewall dell'anno prima. Lo ricordo in una nota arcigay, spiegando che le restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria hanno reso impossibile lo svolgimento nel nostro paese delle parate del Pride. Tuttavia, in questo fine settimana, in diversi luoghi fisici e virtuali, con diverse modalità, tutte rispettose delle norme, dice, verranno celebrate comunque il 28 giugno. Domani si terranno iniziative offline in varie città italiane. La grande novità di quest'anno, sottolinea Arcigay, è il Global Pride, la maratona di 26 ore online che coinvolgerà domani, a partire dalle 7:30 ore italiane, i Pride di tutto il globo. Per chiudere, lo sport: Serie A maschile già in campo questa sera, con l'anticipo Juventus-Lecce alle 21:45. Tra le inseguitrici dei bianconeri, la Lazio giocherà domani contro la Fiorentina, Parma-Inter invece domenica sera. E con questi aggiornamenti di calcio ci sentiamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre 60 minuti, lo sapete, ricchissimi di notizie, di sintesi della giornata, aggiornamenti in diretta e poi approfondimenti immancabili con gli ospiti di alcune notizie che sono in primissimo piano. Roberto Giordano sempre con voi per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte e poi i WhatsApp al 349-238-6666. Naturalmente cominciamo dal tema della scuola. Sono linee assolutamente condivise, le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali che ci hanno dato veramente una grande mano. Sono linee guida immediatamente operative. Ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzare queste soluzioni. Questa è la ministra Azzolina, vi dicevo, che ha presentato oggi finalmente questo piano, queste linee guida per la ripartenza, la riapertura della scuola a partire dal 14 settembre. Questa ormai è la data ufficiale. È arrivato questo accordo tra il governo, il Ministero dell'Istruzione, gli enti locali e tutti i soggetti, insomma, che sono stati coinvolti. Finalmente si è arrivata a queste linee guida che avete sentito Azzolina dice sono immediatamente operative. E tra l'altro ci sono le persone, ci sono le risorse. Saluto subito Cristina Grieco, che è assessora all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana e coordinatrice della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni. Buonasera Grieco. Buonasera radioascoltatori, grazie dell'invito. E grazie a lei della sua presenza. E Antonello Giannelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buonasera anche a lei Giannelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi Azzolina ha detto che insomma, a questo punto ci sono le linee guida e ci sono le soluzioni per eventuali questioni ancora da chiarire, ma sentiamo ancora altri passaggi, per esempio quello che riguarda i tanti soldi, dice Azzolina, investiti per la scuola. 1 miliardo in più per me che sono ministro dell'istruzione, che vengo dal mondo della scuola, è veramente tanto se pensiamo che oltre a quel miliardo ne abbiamo stanziati 4,6 di miliardi da gennaio fino ad oggi sulla scuola. La scuola non aveva mai visto tutti questi soldi, perché la scuola è stata sottoposta, ahimè, e lo sappiamo tutti quanti, a tagli che poi l'hanno in parte ridotta nella situazione che conosciamo. Grieco, a questo proposito, voi come regioni avete molto spinto, no, perché si aumentasse lo stanziamento di fondi per la scuola. Oggi Bonaccini, presidente, oltre che dell'Emilia Romagna, della Conferenza delle Regioni, si è detto soddisfatto, ha detto che questo accordo è un passo molto importante. Lo è, quindi. È un passo molto importante nella direzione giusta, perché le linee guida, così come erano state presentate in una bozza, anche noi le avevamo ricevute praticamente insieme alla stampa, erano molto molto generiche e non avevano, diciamo, gli strumenti per essere operative nell'immediato. Ora, siccome noi abbiamo la necessità di trovare soluzioni diciamo immediate, per abbiamo 8 settimane in realtà che ci separano da settembre, c'è bisogno di agire in fretta, e c'è bisogno che i dirigenti scolastici, gli enti locali, che alla fine erano quelli che sembravano un po' avere tutto il processo sulle spalle, possano avere gli strumenti, quindi le risorse anche umane, professionali, quindi un aumento di organico per mettere in atto quelle soluzioni di cui parlava poc'anzi la Ministra, che sono esemplificate anche nel piano, ma che hanno bisogno appunto di strumenti per poter essere attuate. Quindi con un lavoro di collaborazione anche con l'Associazione dei Comuni, con le province, e devo dire trovando la piena disponibilità della Ministra, oggi era presente anche il Ministro Speranza, quindi una grande apertura da parte del Ministero, tutte le nostre richieste di modifica, quindi le richieste emendative, ma soprattutto le richieste che abbiamo fatto di risorse, di organico e di un tavolo separato per i trasporti, sono state accolte, quindi io credo che il testo sia davvero migliorato rispetto a quello che ha circolato nei giorni scorsi. Tra l'altro il Presidente del Consiglio Conte oggi ha detto che ci sarà, queste linee guida prevedono un rientro in assoluta sicurezza, ha detto che ci sarà 1 miliardo sulla scuola appunto, e che sarà tra i punti del Recovery Fund, cioè questo fondo europeo di cui si è parlato tanto, che dovrebbe appunto stanziare molti fondi, molti soldi anche per l'Italia, dice sicuramente sarà un capitolo importante, sarà dedicato alla scuola. Sentiamo Conte in un passaggio di oggi. Siamo consapevoli anche degli sforzi che abbiamo imposto alle famiglie, non solo ai nostri ragazzi ovviamente che sono stati costretti a casa, ma anche alle famiglie, anche dal punto di vista organizzativo. Però quello di cui nessuno deve dubitare è che la scuola è al centro dell'azione di governo, della politica del governo, e al centro dei nostri pensieri, e non solo abbiamo già investito, ma continueremo a investire sempre più. Quindi Greco, per il momento le risorse stanziate, o almeno annunciate, vi soddisfano? Ma sicuramente è un passo avanti, su questo la Ministra ha ragione, negli ultimi decenni la scuola, a parte poche parentesi, è stata vittima di tagli, insomma tutte le leggi sulla scuola sono state leggi finanziarie. È chiaro che poi a un certo punto si arriva a un livello al di sotto del quale non si può scendere. E nel prossimo futuro noi con il Recovery Fund abbiamo l'occasione di scegliere quali settori considerare strategici, considerare asset di sviluppo. E allora se davvero perdessimo l'occasione di investire in modo serio, in modo pesante su educazione, istruzione, competenze, ricerca, davvero perderemmo l'ultima occasione forse per mantenere livelli di competitività, ma io dico anche livelli di coesione sociale, perché poi l'istruzione e l'inclusione sono le basi per avere una società sana per il futuro, certo. Democratica. Preside Giannelli, sentiamo per quanto riguarda nel concreto degli spazi, la riqualificazione degli spazi, questo passaggio sempre della Ministra oggi in conferenza stampa. Lavoriamo sugli edifici che ci sono, facciamo lavori di edilizia scolastica leggera. C'è una finestra da spostare, c'è un pannello da fare, un'aula da riaprire, un'ala della scuola che era stata chiusa. Si possono fare dei lavori e si faranno grazie al contributo degli enti locali. Se non dovessero bastare, abbiamo ripreso i 3.000 edifici scolastici che erano stati dismessi a causa del dimensionamento scolastico che è stato fatto negli anni. Anche quelli sono edifici che possiamo recuperare. Giannelli, e poi Azzolina ha detto anche che si potrebbero fare lezioni nei cinema, nei teatri, nei musei. Vi convincono voi dirigenti scolastici, voi presidi, che insomma gestirete poi tutto questo? Ma guardi, le lezioni in questi spazi un po' estemporanei secondo me hanno un significato alquanto residuale. Voglio essere ottimista e voglio in qualche modo avere fiducia nella Ministra che ci dice che con gli enti locali, saluto l'assessore Greco dall'altro, sarà possibile in collaborazione riuscire a reperire questi ulteriori spazi. Indubbiamente il tempo è molto poco, abbiamo appunto poco più di 2 mesi, in questi 2 mesi bisognerà recuperare aule per accogliere una stima della percentuale degli alunni pari a circa il 15%, diceva la ministra, il che vuol dire 1.200.000, 1.300.000 di alunni. Quindi non è uno scherzo, è una grande sfida e speriamo che questo si possa fare. Stiamo perché sia la ministra che Conte hanno detto oggi basta con le classi pollaio, Conte stesso ha detto è intollerabile, non sono inaccettabili queste classi pollaio, però appunto rispetto agli spazi e agli edifici disponibili bisogna capire se sarà possibile questo. Però sono due problemi distinti. Per classe pollaio si intende una classe relativamente affollata, diciamo di una trentina di alunni. Ora, se io 30 alunni li metto in un'aula piccola o in un'aula grande, sempre affollata resta. Semmai il problema è il distanziamento. Se si vuole incidere sulle classi pollaio e fare in modo che ci siano meno alunni a classe, questo significa incrementare l'organico, il che comporta naturalmente livelli di spesa molto superiori. E allora parliamo indubbiamente i fondi reperiti in più, il miliardo reperito in più, stando alle dichiarazioni della ministra, dovrebbero andare in buona parte anche per incrementare l'organico di circa 50.000 unità di docenti. E infatti sentiamo questo passaggio, infatti, Giannelli, della ministra Azzolina. È evidente che se abbiamo bisogno di più spazi, abbiamo bisogno anche di più organico, abbiamo bisogno anche di più docenti e anche personale non docente. E allora distinguiamo, con i soldi che stiamo mettendo adesso possiamo assumere fino a 50.000 persone, tra docenti e personale ATA, a tempo determinato, in più rispetto al normale organico che abbiamo tutti gli anni e che non abbiamo tagliato, ci tengo a dirlo, non è stato tagliato né l'organico di fatto né l'organico di diritto rispetto agli anni scorsi, malgrado la denatalità che è in corso. Ecco, questo per quanto riguarda il personale a tempo determinato, sentiamo anche le assunzioni a tempo indeterminato di cui ha parlato Azzolina. E poi quest'estate assumeremo a tempo indeterminato, sulla base dei pensionamenti che avremo, sia il personale docente sia il personale non docente. Per non parlare dell'enorme investimento che abbiamo fatto sui concorsi, migliaia di posti dati a concorso. E in ultimo, sempre per il personale, il cuneo fiscale. A luglio gli stipendi del personale docente cresceranno. Avremo tra gli 80 e i 100 euro in più. Ecco, sul personale, sulle assunzioni, vorrei un commento breve sia di Giannelli che di Greco. Giannelli, quindi. Io do atto alla ministra dello sforzo e della buona volontà su questo fronte, però vorrei ricordare che la situazione delle assunzioni di ruolo, diciamo così, del mondo della scuola è patologica da sempre e negli anni è peggiorata. In questo momento noi abbiamo circa 200.000 posti di ruolo che non hanno un titolare, su un totale di insegnanti, di docenti pari a 800.000, quindi circa un quarto della forza docente non è di ruolo, è precaria. Quindi da questo punto di vista 50.000 posti ovviamente fanno piacere e di questo possiamo essere soddisfatti, però ne mancano altri 150.000 di ruolo. Il vero problema è che la macchina dello Stato non riesce a stare dietro alla necessità di assunzioni ricorrendo ai concorsi. Questo è un vecchio problema che abbiamo più volte messo sul tappeto ma non riusciamo a risolvere. Greco, cosa ne pensa di questi annunci di assunzioni? Sì, intanto saluto il preside Giannelli. Sì, come non poter non essere d'accordo, è vero, qui il Paese si dovrà dare nei prossimi anni delle regole anche di reclutamento diverse, dei concorsi fatti quindi con una regolarità, perché il precariato della scuola è un male che poi si ripercuote sui ragazzi che non hanno continuità, dico soprattutto sui più fragili, quindi è sicuramente una situazione che deve essere una volta per tutte presa in carico. Ecco, se davvero decidiamo di dare attenzione, di porre al centro dell'azione politica di ogni livello di governo la scuola, dobbiamo fare delle scelte coerenti e degli investimenti coerenti. Poi certo non è colpa dell'attuale ministra, perché qui lo diciamo, insomma, sono decenni che decenni che si taglia, o perlomeno ecco, si cerca di razionalizzare in maniera non sempre coerente poi con gli obiettivi dell'azione didattica. Invece Giannelli, a proposito della questione delle elezioni, no? Che sappiamo per via del Covid sono state rimandate, elezioni amministrative, comunali, regionali, eccetera, dovrebbero esserci intorno al 20-21 di settembre. Azzolina anche su questo ha detto: troveremo una soluzione, vedremo di farli in ambienti, in edifici diversi dalle scuole. Beh sì, questa è una richiesta che noi come Associazione Nazionale Presidi facciamo da tanti anni. Non riusciamo a capire perché nel nostro paese non si riesca a trovare una soluzione differente che non sia quella di interrompere periodicamente le lezioni di tante scuole e perdere diversi giorni di lezione per esercitare un sacrosanto, ribadiamolo chiaramente, diritto quale quello di voto, però non si capisce perché questo debba confliggere con il diritto all'istruzione. Credo che sia ormai, il tempo ormai sia maturo per trovare una soluzione ragionevole che consenta a tutti i ragazzi di non perdere le ore di lezione, specialmente in questo momento dopo mesi di lockdown. Greco, per chiudere, per esempio, tra le varie perplessità di Italia Viva dicono: dobbiamo capire se tutto questo sarà compatibile economicamente con le risorse che abbiamo. Rispetto alle elezioni, ma comunque il tema va sollevato. Ora, dopo l'anno che abbiamo trascorso, quindi con ragazzi fuori dalla scuola, con la didattica a distanza, bisogna evitare di creare veramente un disagio nella prima parte della ripresa delle attività didattiche. Quindi io non so se sarà possibile davvero votare in altri luoghi in questo momento, però sicuramente il tema va posto. Anche noi lo chiediamo come regioni, anche la mia regione addirittura aveva una mozione del Consiglio regionale, quindi se si riuscisse a trovare una soluzione adesso è importante, ma forse è anche l'occasione per porre il tema anche per il futuro. Greco, fra l'altro un ascoltatore dice: ma della scuola d'infanzia, che da lì che si parte non se ne parla, è inclusa immagino in questo piano? Oppure assolutamente sì, una delle modifiche che abbiamo chiesto è proprio quella di inserire non solo l'infanzia, quella era già inserita nella bozza, ma anche la fascia 03, quindi di tornare a dare indicazioni su tutto lo 06, che è il sistema integrato di servizi per l'infanzia, che insomma ormai è legge, abbiamo il decreto 65 in Italia, per cui sì, anche i più piccolini sono compresi nel piano, naturalmente lì con modalità diverse, anticontagio, perché lì non si può parlare di distanziamento, quindi anche il metro di distanziamento che è previsto per i più grandi lì deve essere compensato con altre misure, lavoro in piccoli gruppi, magari anche più controlli, igiene ancora maggiore, ma per i piccolini parlare di distanziamento non è coerente con la relazione educativa. Giannelli, devo chiudere, le linee guida quindi poi per il distanziamento, tutto quanto è piuttosto chiaro, anche questa storia delle rime buccali, diciamo, usare questi termini forse a volte si potrebbe essere più semplice, no? Che sarebbe dalle bocche, distanziamento delle bocche dei ragazzi di un metro, le rime buccali. Comunque al di là di questa espressione un po' particolare, vi sono chiare al momento le linee per la sicurezza? Per chiudere molto sinteticamente, Giannelli. Sì, io direi di sì. Avevamo sollevato varie critiche perché appunto ci sembrava che non ci fosse chiarezza su alcune questioni. Questa del distanziamento è stata chiarita, al di là delle rime buccali, però significa sostanzialmente un ragazzo ogni metro. Questo significa che come occupazione di superficie è circa un metro quadro ad alunno. Allora questo consente indubbiamente di avere una quantità di aule non adeguate che è minore di quanto si potesse temere. Infatti la ministra ha stimato il 15% delle aule non adeguate, e questo noi confidiamo e siamo pronti a collaborare con gli enti locali affinché siano reperite e siano utilizzate nei tempi debiti. Bene, quindi il piano c'è, vediamo come, speriamo appunto che da 14 settembre si parta finalmente, poi su mascherine e altre cose si capirà a quel punto qual è la situazione della circolazione del virus in Italia. Speriamo tutto bene. Grazie ad Antonello Giannelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e Cristina Grieco, Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni. Grazie, buona serata. Grazie buona a voi, serata. Buonasera. Breve riflessione, breve pausa. Come sempre torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed è qui che trovate un quadro chiaro e esauriente tutte le sere delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. È Roberta Giordano che vi accompagna tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 per quanto riguarda i WhatsApp. Mario scrive: le reazioni di sdegno e condanna al mancato taglio dei vitalizi non arrivano solo da frange del Parlamento ma anche dalla società civile. In un momento molto difficile per tante famiglie, questa decisione rappresenta un ulteriore schiaffo verso chi chiede sostegno e misure adeguate. E questa notizia, infatti, ve l'avevo data proprio ieri in diretta, in presa diretta, era comparsa sulle agenzie durante la diretta di Effetto Notte, la notizia secondo la quale la commissione contenziosa del Senato annulla la delibera del Consiglio di Presidenza che nell'ottobre del 2018 aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che è un storico cavallo di battaglia, come sapete, del Movimento 5 Stelle. Tre voti a favore ci sono stati, cioè del taglio dei vitalizi, e due invece contrari, che sono quelli dei senatori della Lega Simone Pillon e l'ex 5 Stelle, passata alla Lega Alessandra Riccardi. Inevitabili opposte oggi le varie reazioni politiche. Da una parte Maurizio Paniz, già ve l'avevo accennato ieri sera, ex deputato e avvocato che ha difeso i vari ex senatori e parlamentari in questo ricorso, canta vittoria e dice è stato ripristinato lo Stato di diritto. Dall'altra si grida allo scandalo, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi dice chi dobbiamo ringraziare per questa operazione? La presidenza del Senato? E dice è uno schiaffo a un paese che soffre, la casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo Stato di diritto e il principio di uguaglianza. Di Maio, sempre 5 Stelle, dice pensare di utilizzare i soldi degli italiani per ripristinare degli assurdi privilegi è un atto di una gravità assoluta. Il PD si è detto sconcertato e totalmente contrario a questa decisione assunta dalla commissione. Salvini ha detto come Lega ci opporremo ovunque e comunque, abbiamo fatto le barricate in Senato e le faremo nelle piazze. Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dice Forza Italia assolutamente favorevole al taglio dei vitalizi. Allora, cara Sara Monaci del Sole 24 Ore, bentornata Sara. Buonasera. In sintesi, se sono tutti contrari, ecco com'è che questo taglio dei vitalizi è stato annullato? Com'è possibile? Appunto, perché ci sono stati degli ex parlamentari che vedendosi tagliare il proprio vitalizio, ricordiamo, hanno fatto ricorso. Va bene, però se tutti i partiti però sì. Prego. Perché i vitalizi sono stati aboliti per i parlamentari che hanno un incarico a seguito del 2012. Qui si tratta di quelli retroattivo. Che lo avevano esattamente. Quindi si può anche gridare allo scandalo perché dal punto di vista della comunicazione politica in un momento come questo soprattutto può risultare oltre che etico proprio antiestetico una scelta di questo tipo. Però effettivamente è anche un inciampo di tipo giuridico, perché quando altre categorie gridano al fatto che i tagli non possono essere retroattivi, poi gli viene dato ragione e loro hanno vinto sullo stesso principio. Alcuni parlamentari hanno fatto ricorso a quello che è il tribunalino interno del Senato, che questa commissione appunto contenziosa, si chiama così. Al quale si può fare però ulteriormente ricorso, ricordiamolo, si può impugnare questa decisione che dovrà essere poi presa in via definitiva dall'ufficio di presidenza, quindi la partita non è finita. Non è finita, però evidentemente è sfuggita di mano. Ecco, per quale motivo giustamente tu mi dicevi che sono tutti favorevoli, poi non è stato fatto niente? Perché di fronte a un ricorso, l'arrivo di un ricorso, o possiamo immaginare che nessuno immaginasse che sarebbe andata così, qualcuno poteva ricorrere, ma non credo, non è stato certo fatto di nascosto, o nessuno si è occupato di trovare una soluzione. Che Sara, però scusami, Antonio scrive, se una norma è scritta male è un gioco per i vecchi marpioni della politica, c'era qualcosa che permetteva insomma con un grimaldello di farla saltare, questa cosa non era scritta bene, questa cosa dei tagli di vitalizi? In realtà ci sono state delle cose che sono state contestate e sono delle cose che in punta di diritto sono ragionevoli. Togliamo, sgombriamo il campo, poniamo si trattasse di un'altra questione, non dei vitalizi che sono argomento antipatico alla maggior parte degli italiani. L'argomento per cui è stata cancellata questa norma, i vitalizi sono stati ripristinati, lo ricordo, cosa ancora più antipatica, in questo periodo verranno addirittura restituiti gli arretrati, perché così va se non verrà poi bloccato da un ulteriore ricorso. Il motivo per cui il tribunalino del Senato ha dato ragione ai ricorrenti è che Il taglio non può essere retrattivo e non può essere definitivo, ma solo temporaneo. Mm. Non può valere solo per gli ex parlamentari, ma deve vedere per tutte le categorie. Sì, poi non era ragionevole, cioè ritenuto troppo grande. Poi altra cosa, sì, parliamo di risparmi, ma viene sottolineato dall'avvocato e anche dal tribunalino che non si è indicato esattamente dove andassero poi questi risparmi, di, esattamente, che sono di 2,2 milioni su un bilancio di 500 milioni. Quindi se noi lo applicassimo questa serie di principi ad un'altra categoria meno fortunata e con pensioni meno onerose, sarebbe pericoloso, insomma. Sì, e troveremo anche ragionevoli come motivazioni. Quindi qual è il punto? È l'opportunità. In una fase come questa, io credo che più che se si va a guardare le ragioni, può darsi che troveremo anche qualcosa di giusto dal punto di vista giuridico. Esattamente, qui si tratta non tanto. È una questione di opportunità, però, in un paese, diciamo, dove ancora non arriva la cassa integrazione a molti e tanti rischiano di andare a gambe all'aria. Leggo solo per chiudere che gli ex parlamentari promotori di questo ricorso si dicono disponibili eventuali sacrifici a patto che siano rispettosi della sentenza della Corte Costituzionale. Vedremo come va avanti questa storia. Sostanzialmente vorrebbero che il taglio fosse più basso. Un piccolo contributo di solidarietà. Poteva essere trovato un accordo precedente prima che si arrivasse ad un ricorso vero e proprio. I partiti sapevano che stava per arrivare un ricorso, quindi a mio avviso si poteva fare meno finta che questo arrivasse. Esattamente, perché poi questi tagli spesso tutti li vogliono, poi quando si arriva alla fine c'è sempre qualcuno che poi non li vuole davvero. Ecco. Si guardano dall'altra parte. Vedremo se la partita non è ancora chiusa. Grazie Sara Monaci. Ciao. Grazie cara a voi, Sara. Buona serata. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Fra due o tre giorni, quando avremo fatto 3-4 mila tamponi alla fascia di popolazione che è intorno alle palazzine, se noi troviamo 4, 5, 10 positivi, vuol dire che la situazione è pienamente sotto controllo. Se dovessimo avere 100 positivi, si mette in quarantena tutta la città di Mondragone. Chiaro? È chiaro, ha detto il presidente della Campania De Luca a proposito appunto del focolaio di Mondragone. Ieri parlavamo dell'allarme in Europa della OMS su nuovi focolai che stanno nascendo, riguardano anche l'Italia, ce ne sono una decina secondo la Fondazione Gimbe, che vanno da Bolzano fino a Porto Empedocle in Sicilia. Il ministro Speranza ha sottolineato ancora la battaglia non è ancora vinta. Due le situazioni che destano maggiore preoccupazione in Italia, ne parlavamo ieri, la sede della Bartolini Corriere Espresso a Bologna, che addirittura è a rischio chiusura perché ci sono quasi una cinquantina di positivi e secondo i sindacati i lavoratori sono terrorizzati, e poi a Mondragone in Campania dove c'è anche un'emergenza sociale che ci raccontava ieri Roberto Russo, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Roberto, bentornato. Buonasera a voi, eccomi. Senti Roberto, resta comunque alta la tensione, dicevamo, tra gli abitanti di Mondragone e questa comunità Rom di origine bulgara, che poi sono, cioè, raccontato dei braccianti come tanti sfruttati, no? Nei campi, nell'agricoltura del sud e non solo, che lavorano in nero e che ieri soprattutto erano preoccupati, una volta blindati in queste ex palazzine, dell'ex Cirio, di non avere neanche i viveri. Oggi mi pare che la protezione civile abbia portato alimenti. Sì. La situazione è, la tensione è scemata, diciamo, non ci sono proteste di piazza, anche perché sono arrivati tra l'altro 70 soldati che il ministro Lamorgese ha inviato a Mondragone. Su richiesta di De Luca, appunto. Sì, su richiesta di De Luca. Le palazzine sono state purtroppo, diciamo, circondate, quindi la scena non è bellissima, però questo ha riportato la situazione nell'alveo di una normalità, nel senso che non ci sono state altre proteste tra i cittadini mondragonesi e bulgari. Devo dire che oggi in Campania si registrano solo due nuovi positivi al Covid, quindi la situazione non è drammatica, diciamo, al momento non c'è la prova che ci sia stata un'impennata fuori da quegli edifici, e la protezione civile sta sicuramente aiutando molto i bulgari. Quindi la tensione tra gli abitanti e questa comunità rom di origine bulgara è un po', dici, è abbastanza scemata. Perché però adesso, stanotte hanno bruciato anche un furgoncino di questa comunità. Aspetta, no? voglio chiarire, stanotte qualcuno ha tentato di bruciare, in realtà non sono nemmeno riusciti a dare fuoco a questo a questo furgone bulgaro che è parcheggiato vicino a uno di questi palazzi. Certamente qualcuno ha tentato di... Però la situazione dice è sotto controllo, sì, per fortuna. Sì, però adesso c'è l'altro elemento, che è un elemento di tensione politica inevitabile, perché lunedì, come sai, arriva Salvini, che già insomma è un botta e risposta continuo con De Luca. Senti, c'è Sergio Serraino anche in collegamento, operatore sociosanitario, coordinatore dell'ambulatorio di emergency nella vicina cittadina di Castel Volturno, anche lei tristemente conosciuta, diciamo, per storie drammatiche relative a braccianti e migranti. Buonasera, Serraino. Sì, buonasera. Anche io questo pomeriggio sono stato intorno alle 3 nella zona degli ex palazzi Cirio e confermo che c'erano solo giornalisti e militari. Meno male. Voi però appunto avete questo questo ambulatorio, no, di emergency. Come mai c'è un ambulatorio di emergency? 2013. Come mai lì invece di esserci un ambulatorio, diciamo, tra virgolette, normale, come dappertutto, se ci siete voi di emergency, di solito siamo abituati a pensarvi in vari scenari del mondo disastrati. Ma invece emergency è già dal 2006 che opera in Italia con un programma specifico. Noi lo diciamo sempre, insomma, in molte zone siamo il medico di base per chi non ha diritto ad avere il medico di base, che tendenzialmente sono i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno e i cittadini italiani senza residenza, quindi senza fissa dimora. La situazione sanitaria di questo gruppo a Mondragone com'è, quindi? Beh, io insomma seguo quello che scrivono i giornali, sono in contatto con l'unità operativa di prevenzione collettiva, sono in contatto anche con il Covid Center. Sono quasi tutti, diciamo, asintomatici o pauci sintomatici, quindi con una sintomatologia lieve. Come dire, se non avessero fatto il tampone non se ne sarebbe accorto nessuno probabilmente di questa situazione, perché da quello che mi raccontano sintomatologia è abbastanza lieve. Quindi insomma diciamo non c'è più tanta tensione, e soprattutto da quelle che sono le vostre analisi, avete fatto anche degli screening, no? Sono quasi tutti asintomatici questi cittadini. Sì, nel senso, quello che mi raccontano dal Covid Center è che sono tutti asintomatici o con una sintomatologia lieve, quelli ricoverati. E in generale credo anche gli altri positivi siano nella stessa situazione. Su Castel Volturno, peraltro, io questo l'ho raccontato oggi a qualche altro giornale, due o tre settimane fa l'ASL aveva fatto dei test rapidi proprio sotto i palazzi ex Cirio, quelli diciamo sierologici. Ed erano risultati 4 positivi ed erano italiani, però cioè, su 40 bulgari non c'era neanche un positivo, quindi anche questa cosa è un po' da capire. È una cosa molto recente. Va bene, poi ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Devo chiudere, grazie a Sergio Serraino di Emergency e a Roberto Russo, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Grazie e buona serata. C'è Paolo Corazzon, non sapevo se potevo chiamarlo o no. Paolo. Paolo. Buonasera Roberta. Lo so, Filippo, siamo, Limi, guarda, sì. Sì. Ci siamo. Sarai contenta, è arrivata l'estate e ce la teniamo, punto e basta. Guarda, ci attende un weekend veramente da piena estate, anzi fin troppo, perché temperature alte al nord in pianura padana toccheremo anche i 35 gradi umidi, quindi ci sarà da sudare, però insomma volevamo l'estate, è arrivata e ce la teniamo. Al centro-sud per sempre, mi verrebbe da dire, nel senso che non si intravedono cambiamenti. Il nord magari nella seconda parte, la prossima settimana, vedrà passare qualche temporale, ma questo potrebbe portare a puntare almeno un po' più freschina al nord, che sarà la zona che soffre di più. Ma in generale, guarda, basta, fa bello e ce lo teniamo. E vince l'estate. Grazie Paolo Corazzone dell'ottima notizia, Trevi Meteo. Ciao caro Paolo, buon tempo a te comunque sia. Ciao. Sentiamo alle 22.